Radical Winnie. Ulemen un balas dulce, paso di tutto vina. Geda zana geta gome, ora gule biku wini. Ulemen un balas dulce, paso di tutto vina. Geda zana geta gome.